Il leone fatto vecchio da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Dagli acciacchi e dagli anni assassinato, un leone già terrore della foresta un giorno fu assaltato dai suoi sudditi stessi, resi audaci dal vederlo ridotto in quello stato. Il cavallo gli tira nella testa un calcio, il lupo il morde ed anche il bue usa le corna sue. Triste, vecchio, il leon è inutil dire se, accasciato dagli anni, trova il fiato ancora di ruggire. Rassegnato, apparecchiasi alla morte senza tanti lamenti, quando vede anche l'asino venire verso la grotta alla feroce impresa. «Ah, questo è troppo», disse, «o ignobil bestia, non è il morir così grande molestia come il soffrir d'un asino l'offesa». Fine della favola «Il leone fatto vecchio». Questa registrazione è di dominio pubblico.